oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno, siamo arrivati a questo esperimento radiofonico che è stato un po' annunciato ormai già dalla settimana scorsa e che si intitola appunto Oltre la crisi, e non a caso è stata scelta la canzone dei Coldplay Viva la vida, perché vogliamo parlare di vivere e vivere con un certo benessere anche. E siamo qui in compagnia del professor Francesco Campione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cominciamo col tu, perché qui dobbiamo stare insieme tanto tempo e siccome faremo due chiacchiere con i nostri ascoltatori e tra di noi, cominciamo subito a prendere confidenza, se non ti allora dispiace. E allora ciao. Ciao. Ciao. Benvenuto e grazie per averci dedicato questo tempo per aprire una sorta a quello che ho definito di sportello radiofonico, laboratorio radiofonico di elaborazione. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, chi è Francesco Campione? Perché abbiamo detto professor Francesco Campione, sei professore di che? Di psicologia clinica. Io sono professore di psicologia clinica, quella che era prima una volta la facoltà di medicina, che si chiama sempre facoltà di medicina, e fondamentalmente mi occupo da molti anni di quella parte della psicologia che si chiama psicologia delle situazioni di crisi. E qua già mettiamo un punto, visto che oggi con crisi si intende specificamente la crisi economica, perché se ne parla continuamente su tutti i giornali e ovunque, è un po' ad anni ormai, inquadriamo cosa intendiamo per stato di crisi. Beh, lo stato di crisi naturalmente noi lo studiamo dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista economico, dal punto di vista psicologico, è una situazione difficile nella quale le persone si vengono a trovare quando c'è un cambiamento profondo nella loro vita, solitamente negativo ma anche positivo, che rende impossibile di continuare a impostare l'esistenza nello stesso modo di prima, e c'è bisogno di prendere decisioni di cambiamenti importanti. Questa è la crisi. Quando si dice sono in crisi, vuol dire questo, vuol dire che non posso più essere come prima e ancora non so come devo essere, ma c'è una forte spinta a decidere di andare in un'altra direzione. E tra l'altro vogliamo specificare, per non spaventare i nostri ascoltatori, che non saranno delle puntate di lezioni di psicologia o di... perché quelle le fai all'università, giusto? Forse certe volte neanche là. Cerchiamo insomma di fare, il titolo è appunto Oltre la crisi parliamo, di parlare insieme, perché se la nostra società in questo momento ci sta portando sempre più all'isolamento e all'individualismo, vogliamo recuperare quel senso di comunità che aiuta anche a superare gli stati di crisi e che ha sempre funzionato nel passato e che si è un po' abbandonato. La nostra è una radio che si definisce comunitaria e proprio alla comunità si rivolge e anche al senso di comunità. Ma questo corrisponde molto anche alla impostazione del nostro lavoro, che fondamentalmente è basato su due spinte: la spinta solidale verso le persone che, trovando in una situazione di crisi, hanno bisogno di aiuto e tante volte non lo trovano, e secondo, il senso di responsabilità nei confronti di chi appunto si trova in crisi e attorno a sé non ha persone che si assumono la responsabilità di aiutarlo, viene lasciato solo e quindi la crisi marcisce, diventa cronica e con tutte le conseguenze che questo comporta. Benissimo, Francesco. Io intanto voglio salutare William Piana, che ci sta aiutando in regia. Ciao. Ciao William, e che ci allieterà con i suoi stacchi musicali nella nostra chiacchierata. Poi voglio anche ricordare che lo scopo principale di questa trasmissione è quello di coinvolgere le persone che ci ascoltano attraverso domande, attraverso commenti, interventi, suggestioni, racconti di vita, non lo so, qualsiasi cosa vi possa venire venire in mente nel merito. E quindi io intanto ricordo ai nostri ascoltatori come venire in contatto con noi. Se ci volete telefonare, il numero è 051 346 458. Invece è possibile anche mandare un sms, come in tutte le trasmissioni, 333 180 94 94. Per i più timidi, vogliamo dire così, o per le persone che comunque una volta ascoltata la trasmissione hanno bisogno di pensarci, elaborare, eccetera eccetera, diamo anche una mail che è fra103@radiocittafugico.it. Willy, io partirei col primo brano, cosa ne pensi? E andiamo allora con il primo brano. Che cosa ci proponi? Moiden Voyage, uno dei primi brani di Herbie Hancock, in questo caso cantato, non suonato con lo stile del grandissimo Camaleonte, ma cantato con lo stile di Mark Murphy. Restate in ascolto e a più tardi. See the sky. Let's explore its blue. Tide is high. It's time for your debut. Like a ship you must leave the bay. On this trip you will love today. Maiden voyage, the first affair. Set your sails to cast away. Set your course of love today. Leave the bay. alle 13:10 minuti, noi rientriamo in diretta, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko e qui di fronte a me ho i due Franceschi, posso definirvi. Ciccio e Ciccia, Ciccio dire, e Ciccia, posso dire per il rientro in diretta. Che Ciccio inizia dei due? Inizio io, dai. Perché io voglio salutare e ringraziare l'associazione Rivivere, che ci ha concesso, ci ha prestato il professor Francesco Campione per questa oretta settimanale che passerà insieme a noi. Adesso, a parte la battuta, li salutiamo e li ringraziamo, ma innanzitutto raccontami che cos'è e che cosa fa l'associazione Rivivere. Innanzitutto ci tengo a precisare che il prestito è tutto gratuito. In quanto prestito è una lamentela oppure no, no, è una donazione del tutto gratuita, spontanea. Anzi, sono io che ringrazio, perché ovviamente a noi fa piacere essere in contatto con voi, essere in contatto con le persone che telefonano, che telefoneranno, così eccetera. Quindi, perché la nostra vocazione è una vocazione di aiuto che implica il contatto con tutti. Ecco, l'associazione Rivivere. Cosa vuoi sapere dell'associazione Rivivere? Intanto come nasce, perché nasce? Ecco, l'associazione Rivivere forse è curioso, ha due vite. Questa è la seconda vita dell'associazione Rivivere. L'associazione Rivivere nella sua prima vita era un'associazione di associazioni. Cioè, quando io mi sono reso conto che ci sono tante situazioni nelle quali ci sarebbe bisogno di essere aiutati perché si è in crisi, ho pensato di mettere insieme le associazioni che in questa città, allora adesso mi ricordo Piazza Grande, l'Auser, adesso non ne dico altre, ce n'erano 7 o 8, così eccetera, con l'intento di costituire una specie di spazio di collaborazione per affrontare insieme, però in modo specifico, quello che avevano in comune nonostante le diversità, cioè il fatto che quando le persone sono anziane, sono senza fissa dimora, hanno un cancro, si separano, eccetera eccetera, hanno tutte in comune la crisi, la situazione critica. Questa è la prima vita dell'associazione Rivivere. Poi, come sempre accade in questa epoca, è abbastanza difficile tenere insieme tante situazioni e l'associazione Rivivere, come dire, è stata lasciata sola, ma non abbandonata da questi altri amici con cui siamo rimasti in ottimi contatti, e l'associazione Rivivere ha rivissuto e adesso vive la sua seconda vita. E nella sua seconda vita gli scopi dell'associazione Rivivere fondamentalmente sono due. C'è l'applauso qui sotto con questa notizia. Fondamentalmente sono due. Un'intenzione di aiuto specifico, cioè promuovere e organizzare l'aiuto in tutte le situazioni in cui una persona incontra una situazione di vivere, potrebbe soccombere, rischia di soccombere e deve rivivere e ha bisogno di essere aiutata a rivivere dopo la situazione di crisi. Questo è il primo scopo, quello più solidaristico. Poi c'è lo scopo culturale, perché ci siamo resi conto, facendo questo lavoro da tanti anni, che senza una sensibilità dell'ambiente attorno, senza un buon contesto, senza una comunità, poi in definitiva, il nostro lavoro non è possibile, perché in definitiva il nostro lavoro è possibile che sia efficace se viene condotto in associazione con tutte le altre istanze della comunità. Cioè, se non abbiamo nessuna famiglia e uno è completamente solo, è difficilissimo che noi possiamo aiutare, ma se la famiglia non basta e noi diamo un aiuto, lo possiamo aiutare. Faccio questo esempio per dire, quindi l'associazione Rivivere ha fondamentalmente questi due scopi fondamentali. Da qui sono piano piano si sono sviluppate le iniziative concrete della nostra associazione. Devo dire che tu sei partito dall'Istituto di Tanatologia, che riguarda specificamente il lutto, nel senso di persone che vengono a mancare, però poi in realtà l'ambito si è allargato a 360 gradi, perché alla fine le tematiche dove si verificano degli stati di crisi sono le più svariate e appartengono a tutti, diciamo, a tutte le sfere della vita quotidiana. Certo, come dimostra la presenza nell'ambito della nostra attività di diversi servizi. Per esempio, c'è il progetto Rivivere, che è il servizio più importante, che nasce dalla nostra esperienza di assistenza psicologica alle famiglie in lutto negli hospice, e che consiste nell'aver allargato alla città, non solo alle famiglie che perdono un caro in hospice per la morte, per il cancro, ma a quelli che lo perdono per un incidente, per un suicidio, eccetera, cioè un lutto traumatico. Il progetto Rivivere si occupa fondamentalmente di assistere gratuitamente le persone che hanno un lutto, rischiano di morire a loro volta, un lutto grave, e devono rivivere. Questo è il progetto Rivivere, che è un progetto di aiuto psicosociale. Poi c'è il servizio, nell'ambito del progetto Rivivere ci sono vari servizi. C'è il servizio per il lutto traumatico, c'è il servizio per i bambini, che è molto importante, e c'è il servizio per la separazione, che è molto importante anche per i bambini, perché noi seguiamo poi molti bambini di famiglie che si separano e che vengono coinvolte nella situazione critica che intuitivamente può determinare una effetti catastrofici sui bambini. E infine, l'ultimo ma non il meno importante, noi abbiamo il servizio che abbiamo chiamato servizio Primo Maggio, in onore alla festa dei lavoratori, per l'aiuto alle persone che perdono il lavoro o rischiano di perdere il lavoro. Quindi, in definitiva, l'ambito va dal lutto per la morte, naturale o traumatico, passa attraverso la separazione e arriva fino all'aiuto per altre perdite, come quella più drammatica in questo momento, la perdita del lavoro. Eh sì, e lo leggiamo quotidianamente sui giornali, di imprenditori che si tolgono la vita, lavoratori anche, o che arrivano a gesti estremi, o se non arrivano a gesti estremi comunque la loro vita cambia pesantemente. Bologna, io lo notavo ieri sera passeggiando per le strade, sta diventando un dormitorio a cielo aperto. Questa cosa non mi infastidisce, ma mi preoccupa per le persone che si trovano comunque a perdere casa, lavoro, situazioni di minima sicurezza, diciamo, di vita. E quindi, dicevamo, perdita è la parola chiave. Da qui io allargherei ancora ulteriormente, forse ti verrà in mente di impiantare un nuovo progetto più duraturo, non lo so, su quello che invece sono anche le crisi valoriali e anche le crisi di perdita della comunità, come dicevamo. Cosa mi dici in merito? Ma direi che non c'è grande differenza tra questo tipo di perdite e le altre. Il problema è la differenza, è la prospettiva. Io credo che ci siano tutta un'altra serie di situazioni critiche dovute a perdite, dovute a cambiamenti gravi, profondi, negativi della vita, come quelli a cui fai riferimento tu, in cui ci sarebbe un enorme bisogno di aiuto e che purtroppo, come dire, restano in un cono d'ombra, cioè restano, cioè io il lavoro che facciamo noi spesso lo definisco come un lavoro per recuperare l'abbandono in tutte le forme in cui si può manifestare. Allora, ci sono forme di abbandono che sono, come dire, emerse più specificamente all'attenzione e alla coscienza della comunità, e forme di abbandono come quelle che citi tu, che sono molto più nascoste, molto più intrecciate con la vita quotidiana, così, eccetera, e a cui spesso non si fa riferimento, ma che in realtà sono importantissime anche quelle. Quindi niente esclude che E capita spessissimo, per esempio, che le persone si rivolgono a noi per un aiuto, per un disagio, un altro tipo di disagio. Non necessariamente un disagio derivante dal fatto che hanno perso una persona cara, dal fatto che hanno perso, ma per esempio dal fatto che hanno perso il senso della vita, che è una delle situazioni, in una situazione di profonda crisi come la nostra, ci sono, si dice in termini, diciamo in termini tecnici per una volta, ci sono molte situazioni di anomia, cioè situazioni in cui tutte le regole saltano, tutti i valori non valgono più, tutti i valori sono scaduti, e non c'è niente in cambio, cioè c'è quel vuoto che si determina in un'epoca di transizione tra il vecchio mondo, che ormai non ha più senso ed è distrutto, e il nuovo mondo, che ancora non è stato costruito. Per cui, per esempio, quella zona lì è una zona di crisi straordinariamente diffusa, molto più diffusa. Per esempio il mondo giovanile, cioè prendiamo il mondo giovanile, i giovani, si dice spesso che hanno bisogno di lavorare, però se andiamo a vedere cosa succede a un giovane che cerca lavoro e non lo trova, non gli succede soltanto che non può soddisfare i suoi bisogni fondamentali, perché questi solitamente li soddisfa, perché c'è la famiglia, perché non muore di fame. I giovani non muoiono di fame, per fortuna, ci sono certo anche quelli che muoiono di fame, però in generale la condizione giovanile è una condizione esistenziale di profonda crisi, perché c'è la mancanza di speranza nel futuro, non si può progettare niente, c'è appunto tutti i valori che a disposizione, tutti i modelli non hanno senso e così via. Certo, è una grande area di crisi di cui non ci si occupa, secondo me fondamentalmente perché una delle cose che noi culturalmente contro cui andiamo spessissimo è che si tende a monetizzare ogni crisi. Le crisi che non si possono monetizzare non si affrontano. Willy! Parole sante, ero esaltato, ho anche sbagliato a alzare il cursore della diretta per il mio microfono. Sì, condivido pienamente, soprattutto questo discorso del monetizzare per forza ogni cosa, in questo caso una crisi di cui le origini probabilmente sfuggono ai più, di cui le origini dobbiamo andare a ricercare chissà dove, e quindi diciamo che è economica, così non ci sbagliamo. Esatto. Mentre invece l'apatia, direi che è qualcosa che è provocato da una crisi che è vicino a noi e soprattutto vicino ai giovani. La mancanza di passione, la mancanza di interesse, la mancanza di svago, la mancanza di comunità, la mancanza di valori soprattutto, porta appunto a queste situazioni. Bene, scusate, mi sono intromesso magari fuori luogo. Scherzi. Però ogni tanto io devo dare sfogo a queste Abbiamo detto che qui siamo in un salotto a chiacchierare, quindi dovete... noi cominciamo a dare il là, perché poi vogliamo anche le chiacchiere dei nostri ascoltatori, ovviamente. Dovete canalizzarmi adesso. No, ma secondo me è bellissimo invece questa intrusione, io l'apprezzo molto. Allora adesso facciamo introdurre invece qualcuno che ha una voce ancora più bella della mia, si chiama Bebel Gilberto, è la figlia di Joao Donato e questo brano è un grande brano, è Summer Samba, So Nice. Voi restate in ascolto perché dopo torniamo in diretta con i due Franceschi. Understand each little dream in me. rientriamo in onda, siamo sempre con Francesco Campione e stiamo parlando di Oltre la crisi. Allora, nel fuori onda, Willy ha detto una frase che mi ha colpito e che vuole essere suggestione per il prossimo intervento tuo, ovvero almeno ce n'è un altro che dice queste cose, ed è secondo me esattamente il punto e lo scopo di queste trasmissioni, perché lo dicevo già anche prima, se tutto cerca di cacciarci nella più grande, cacciarci, uso apposta questa parola, nella più grande solitudine e nel più grande isolamento, sentire che qualcun altro parla delle nostre cose o dei nostri bisogni o del nostro sentire dà un po' di sollievo e poi può anche portare dell'entusiasmo. Cosa ne pensi? Penso che sia verissimo e che nel nostro lavoro, per esempio, si vede chiaramente che le cose stanno così. Cioè, noi riusciamo a fare qualcosa di concreto se qualcun altro ci segue, se qualcun altro ci appoggia, ci aiuta. Cioè, se c'è qualcun altro che la pensa come noi. Quindi, cioè, come dire, bisogna intendere questo tipo di interventi, cioè bisogna intendere l'oltre la si va oltre la crisi tutti insieme, si va oltre la crisi non uno alla volta, non alla spicciolata, non in ordine sparso, tutti insieme. Il problema è che tutti insieme bisogna prima raccogliersi in un qualche modo. E poi devo dire anche che appunto spesso succede che uno prova dei sentimenti, ovviamente parlo di quelli più negativi, quelli che portano struggimento, dolore e desolazione, e si pensa di essere gli unici al mondo a provare quei sentimenti. Il fatto di sapere che ci sono altri individui che attraversano momenti emotivi di quel tipo incoraggia anche all'affrontarli quantomeno e poi al superamento. Certo, questo è un aspetto, cioè il nostro lavoro si basa anche su questo, cioè l'idea che la condizione della crisi sia una condizione umana è un'idea vincente, forte. Quando la condizione della crisi viene concepita come una stranezza, una malattia, un'eccezione, allora... E però c'è anche un altro aspetto, che bisogna rispettare anche il modo particolare delle persone di andare in crisi. Cioè, certe volte noi non riusciamo ad aiutare le persone perché non consideriamo l'aspetto umano della loro crisi, cioè il fatto che loro sono accomunati nella loro condizione umana dalla crisi con tutti gli altri, e certe altre volte non riusciamo ad aiutarli perché li consideriamo troppo accomunati, cioè non vediamo lo specifico. Allora la scommessa del nostro lavoro è proprio quella. Cioè, per questo, come dire, fare lo psicologo aiutando le persone in una condizione umana che è trasversale non è affatto facile, perché comporta appunto stare in quel crinale delicatissimo del rispetto del modo di ciascuno di essere in crisi, e bisogna parlare a lui e non parlargli come si parla a un essere umano generico, e d'altra parte però non bisogna personalizzare troppo quella crisi, perché altrimenti le esigenze di quella persona chissà dove ti portano. Bene, interrompiamo un attimo per lo stacco pubblicitario, torniamo immediatamente in onda e in diretta con Francesco Campione. Grazie Willy. Questa è la trasmissione Oltre la crisi, parliamone. E abbiamo con noi Francesco Campione, la prima puntata. Stiamo facendo una sorta di puntata introduttiva per spiegare cosa vogliamo fare, quali sono le intenzioni e quantomeno i propositi, più che le intenzioni. E voglio partire da me, perché molto spesso le cose nascono partendo da sé. Io faccio spesso la rassegna stampa qui in radio e nell'ultimo paio d'anni mi sono, forse anche di più comunque, nell'ultimo paio d'anni è diventata più cogente la cosa, mi sono trovata spesso a leggere articoli che parlano di crisi in senso generale, come lo stavamo dicendo, cioè sotto vari aspetti, non solo quello economico, ma anche appunto quello umano, sociale e valoriale. E spesso l'indirizzo, diciamo, che si percepisce da questi articoli è un indirizzo che va verso il pessimismo, verso il lassismo, nel senso non si può fare nulla, speriamo che passi presto, però a parte una speranza, diciamo un auspicio più che una speranza, non si va oltre. Quello che io volevo fare con questa trasmissione, diciamo la lampadina che mi si è accesa, invece era andare nella direzione completamente opposta. Ok, siamo in crisi, ne prendiamo atto, andiamo a guardare tutti i vari aspetti, soprattutto partendo dal quotidiano e anche dall'attualità, però per dare uno slancio in avanti, uno slancio verso il futuro. Francesco. Ma è un invito a nozze, francamente, perché la nostra impostazione è un'impostazione, come dire, non ingenuamente ottimistica, di chi non vede o fa finta di non vedere come stanno le cose. La situazione ha aspetti di tragedia, di drammaticità, le crisi ci sono, certe volte ci distruggono irreparabilmente e così via. Però c'è un aspetto molto importante, che è un aspetto di educazione sociale, a proposito di quello che dicevamo prima, che manca, e cioè noi siamo portati dall'educazione sociale complessiva della nostra cultura a guardare solo dalla parte del negativo. Un solo semplicissimo. Perché questo, secondo te? Perché il male è più interessante del bene. Ah, ecco. Un esempio semplicissimo: le cose buone non fanno notizia, la solidarietà non fa notizia, l'aiuto agli altri non fa notizia. Quello che fa notizia è la tragedia, è ciò che può consentire l'esercizio dello sport umano più diffuso, e cioè l'accusa, il rimprovero, il giudizio, la condanna degli altri, no? E o anche di se stessi. L'altro aspetto è un aspetto che ha a che fare con un atteggiamento tipico della nostra cultura, che è efficientistico, per cui tutto viene preso come se fosse da risolvere in 2-2-4, no? Noi viviamo, per esempio, in un'epoca di diseguaglianze totali da tutti i punti di vista, no? Quando si chiede a una persona che queste diseguaglianze le vorrebbe modificare e riparare perché hanno effetti critici notevoli su quelli che poi non sono uguali, sono meno uguali degli altri, no? La risposta è che non si può fare perché ci vuole troppo tempo per farlo. Tutte le cose che ci vuole troppo tempo per farlo non si fanno nella nostra cultura. In realtà, se ci vogliono 2 secoli per farlo, se si comincia in 2 secoli si farà. Allora, il positivo può derivare, questa è la nostra impostazione, cioè per esempio noi non pensiamo assolutamente che riusciremo ad aiutare tutti quelli che avrebbero bisogno di essere aiutati, però siccome non ci riusciamo, il ragionamento di oggi sarebbe: non lo facciamo perché tanto non ci riusciamo. No, allora il positivo, secondo me, si può basare fondamentalmente sul fatto di prendere in considerazione che c'è un modo di prendere temporalmente, una temporalizzare le cose della vita, dandosi il tempo per risolverle e non sposando la che è in definitiva la nostra subordinazione alla nostra cultura, sposando l'idea che bisogna utilizzare il metodo delle banche. Se non è cash, la banca non ti dà retta. Se non sei efficiente, la scienza non ti dà retta. No, è sbagliatissimo. È per questo che il negativo domina. Perché tutte le volte che non si può risolvere in 2-2-4, no, è come se non si potesse risolvere. In realtà la positività è possibile, intelligentemente, non la positività degli ingenui, no? Che non vedono come stanno le cose e credono di essere in un mondo di beatitudine. È possibile se si apre un'altra prospettiva temporale. Cioè, per esempio, se si, invece di basare la nostra vita sull'idea che è finita, e abbiamo il tempo della nostra vita a disposizione, e se ci vogliono 20 anni ci vuole troppo, no? Dovremmo basarlo sul tempo della vita di tutti. E quando moriremo noi, gli altri ci saranno ancora. Se avremo fatto un pezzo di strada, gli altri lo utilizzeranno. Io vorrei lanciare una provocazione, forse mi spingo un po' troppo oltre, ma un tizio una volta disse: la religione è l'oppio dei popoli. E oggi attualizzando questa dichiarazione, mi verrebbe da dire: il pessimismo oggi è l'oppio dei popoli, perché forse è anche un modo per non far pensare le persone, per non farle reagire, per non farle ragionare sul quotidiano. Cosa ne pensi? Sì, adesso comincia ad essere un po' troppo difficile per me. Comincia ad essere un po' troppo difficile. Anche perché, come dire, di fronte a quello dell'oppio dei popoli. No, togli protagonismo comunque alle persone nella società e nella vita di tutti i giorni. Perché comunque se uno si chiude in casa nella più totale depressione, diventa inerme e completamente inattivo. Certo, anche perché basterebbe dare due dati per essere ottimisti. Siamo di nuovo quasi in Europa a 100 anni di pace. Siamo 7 miliardi, la percentuale delle persone che muoiono di fame diminuisce tutti i giorni. È un dato per essere pessimisti? No. Non è un dato per essere, è un dato per essere ottimisti. No. Sì. Le macchine ci sostituiscono la fatica dell'uomo sempre di più. Il problema è che gli uomini non sono tutti insieme, per cui appena le macchine sostituiscono la fatica dell'uomo, questo va a vantaggio di una parte dell'umanità e non a vantaggio di tutta l'umanità. Quindi i motivi di ottimismo ce ne sono tantissimi, il fatto è che bisogna farli prevalere, cioè il lavoro di costruzione dell'umanità consiste precisamente in questo, nel far prevalere i motivi di ottimismo su quelli del pessimismo, nel far prevalere le cose che si risolvono sulle cose irrisolvibili. Quello è il lavoro dell'umanità. Se l'umanità non va in quella direzione e prevalgono sempre di più i problemi che non si risolvono, si vede che non stiamo andando in una direzione umana, stiamo disumanizzando la nostra vita. Ma i motivi di ottimismo ci sono, e come? Però l'ottimismo è qualcosa che si costruisce, implica un lavoro, implica uno sforzo. I motivi di pessimismo e di ottimismo da sempre si combattono, da sempre si combattono. Dipende da quello che riusciamo a fare per far prevalere l'ottimismo. Andiamo in musica dopo queste bellissime frasi. Stavo per dire la stessa cosa. Che condivido pienamente. Allora diamo spazio alla voce di Kate Rogers. A fra poco. Bye. diretta, sono le 13.50 in compagnia di Francesca Clementoni e del professor Francesco Campione. Siamo qui a chiacchierare piacevolmente e ci piacerebbe tanto che dalla prossima volta, ma anche in questi 10 minuti che ci separano dallo stacco pubblicitario, poter chiacchierare anche con voi da casa o da in macchina o da ovunque voi vi troviate. Con un semplice sms anche al 333-180-9494 oppure Francesca al 051-3464-58 o ancora, se non si può interagire in questa fascia oraria, una mail a fra103@radiocittafugico.it. I modi ci sono, insomma. Ci potete anche raccontare dove siete a quest'ora, che sarebbe anche interessante, perché poi da lì si può partire con ma digressioni. Siamo sicuri di volerlo sapere? Digressioni beh, adesso cose legittime, ma che si possano dire in fascia protetta. Non mettiamoci nei guai da soli. Io a questo punto, visto che abbiamo messo a nostro agio il nostro ospite, adesso passo con le provocazioni invece, perché ormai sono tre quarti d'ora che chiacchieriamo, tu sei un buon oratore e interlocutore, è molto bello ascoltarti, ma un dubbio potrebbe sorgere spontaneo, ovvero tutte chiacchiere, poi nel concreto che cosa vuoi fare con questa trasmissione? Tra l'altro, allora, uno psicologo si sa, riceve in studio, magari col divanetto, oppure no, a seconda delle varie correnti, e c'è anche un clima, diciamo, protetto, eccetera, eccetera. In radio, una telefonata. Che cosa vuoi fare tu qua, oltre a delle chiacchiere? Ecco, la mia ambizione fondamentale della vita è riuscire a rispondere senza suscitare pernacchie a delle risposte, a delle domande per telefono. Ecco. Perché su tutto il resto sono sicuro di poter fare qualcosa, ma su quello accetto la sfida. Quindi mi sembra, la tua provocazione non mi sembra affatto una provocazione, cioè nel senso che mi faccio provocare. È probabile, è possibile che siano tutte chiacchiere. È possibile che finora abbiamo fatto solo chiacchiere. Io non credo, però è possibile. La prova dei fatti è se riusciamo a tenere e a continuare a dire qualcosa a qualcuno che veramente in crisi c'è. Quella è la prova dei fatti. Perché, per esempio, dire solidarietà o responsabilità, così eccetera. Poi bisogna, di fronte a qualcuno che ti fa una domanda precisa su un suo problema, bisogna poi che quella responsabilità e quella solidarietà arrivino alla persona, all'interlocutore. Quindi io non solo accetto la provocazione, ma spero che ne segua anche il tentativo di dare una dimostrazione. E io quindi faccio un appello alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di darmi una mano a mettere in crisi Francesco Campione e a stimolarlo e a, per, proprio su fatti concreti, su questioni di vita. Sarebbe favoloso che uno che è un esperto della crisi venisse messo in crisi, e chi lo aiuta sono quelli che sono in crisi. Ah, è meraviglioso. È un gattone che si mangia un codone, questo qui. Perché... Però va in senso risolutorio, non in senso che. No. Trova la via d'uscita. Sì, perché a proposito di ottimismo, molto spesso accade quando si aiuta una persona veramente in crisi, che chi trova la soluzione per lo psicologo è proprio la persona in crisi. E questa è una cosa sconvolgente, devo dire. Dal punto di vista degli ottimismi. Questo è il più grande ottimismo, che spessissimo capita che chi è in crisi, che chiede aiuto, riceve una risposta e nel ricevere la risposta percepisce che quello che gli ha dato la risposta ha più bisogno di lui. E quindi cosa chiediamo in definitiva alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori? Quello che abbiamo chiesto col titolo, parliamone. Chiediamo questo, parliamone. Perché noi per esempio siamo convinti che quello che è specificamente umano nell'aiuto non è tanto la soluzione o il consiglio che uno ti può dare, ben venga se ce l'ha, ben venga se ha una soluzione tecnica, però nella vita reale quello che veramente aiuta è non essere soli col proprio problema. Quello che veramente dà speranza e produce ottimismo è che qualcuno ti ascolta e non se ne va dopo averti ascoltato, perché non può fare niente nei tuoi confronti, non ti abbandona. Questo è il punto, quindi parliamone in questo senso, cioè nel senso di stabilire uno spazio comune in cui ci aiutiamo ad affrontare le situazioni di crisi. Quindi non abbiamo solamente fatto delle chiacchiere, e poi ci sono chiacchiere e chiacchiere. Queste sono chiacchiere buone, secondo me, chiacchiere utili e propositive. Quindi direi che possiamo dare appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo. Mi raccomando, datemi una mano, perché io da sola non è che posso fare tutto il lavoro qua, mettere in crisi il nostro esperto. Io sono l'assistente dell'esperto, così sono tranquillo. Sono in squadra con te, Francesco. Devo procurarmi delle persone che telefonino? No, io credo che no, assolutamente. Io credo che ci penseranno, mi daranno una mano, quantomeno per affetto, spero. E poi voglio dire, a condividere proprio le problematiche del quotidiano. No, ma non vedo l'ora. Della non vedo vita. L'ora. E quindi, Francesco, mercoledì prossimo, stesso posto, stessa ora, ore 13, sui 103 e 100 di Radio Città Fujiko, con Francesco Campione, William Piana, Francesca Cleventoni. E ci ritroviamo qui per parlarne. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie.